Sarà una notte particolarmente meravigliosa quella di cui stiamo parlando, benché di novembre, di questo preciso novembre, con un velo sottile fosforescente di caligine, ma attraverso il velo si vedrà ingigantire la luna, la quale si rifletterà sulla superficie del fiume, ammorbidita dalla peluria di nebbia. La città sarà regolarmente addormentata secondo l'alterno flusso della vita che viene e che va. E i rumori pure saranno abbastanza spenti, compatibilmente con le esigenze di una grande città, la quale, almeno nelle ore profonde e silenti, riemerge dal passato con tutti i suoi gloriosi e luttuosi fantasmi. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un vecchio frac. Ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli. Un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello. E sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. Si avvicina lentamente con incedere elegante. Ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene né dove va. Di chi sarà quel vecchio frac? Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, buonanotte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Venghino, venghino, venghino signori, qui in riva al fiume, passaggio di vecchi frac sotto la luna. Venghino, venghino a vedere cosa rimane di eterne illusioni, notti senza fine, feste, folli valzer, palazzi incantati, voluta, amori, perdizioni. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore, un frac. Ha un cilindro per cappello, due diamanti per gemelli. Un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello. E sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare. Verso il mare se ne va. Di chi sarà? Di chi sarà? Quel vecchio frac. Addio, addio, addio, addio, addio al mondo. Ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato. Ad un abito da sposa, primo e ultimo suo amore.